fare strada con la mala. Quando sta vita non paga, quando non è un cazzo non è più una scelta stare a bada. C'è chi si sente il migliore, giudica senza vedere. Papà, mamma, dottore, che sputtana è l'ora vera. Parla tanto, noia random, vita di chi vive a quarto. Mentre qui fa caldo, senza soldi ci si affida al branco. Questo è il nostro Bronx, senza far rima con la follia. Senza mai nessuno a casa, è meglio stare per la via. Senza soldi nel lavoro e non per colpa nostra. Famiglia a pezzi fanno figli senza farlo apposta. Palazzi di otto sotto un tetto e tutti senza affetto. L'affitto è basso, lo stipendio pure prende un netto. Finisce che non esce più e capisce che sta andando giù. Se pisci su tutto finisce che non sei più tu. Alla fine si campa, non è un problema, ma non ci sarà mai amore tra me e chi non è un cazzo e fa il campione. Sogno i soldi di Briatore, la barca mi sveglia altrove. Tutto un prezzo e costa cazzo di coda attorno alle 9. Non mi ha fatto mai paura l'uomo nero. Ho paura del minchione, poi mi ho dato un distintivo. Nuova leva, cattiveria nel taschino. Non ha preso mai uno schiaffo ed è ancora un po' bambino. Gioca a fare il soldatino, siete in due. Fra bravo più cattivo, l'arroganza è tanta e tu non puoi rispondere. Se no ti mangia vivo, zero dialogo. Guadagno di sto cazzo, tu sei il diavolo. Sei quello che impazzisce, spara al padre dietro un angolo. Non è l'America, non starci a fare questa predica. Non siamo di Scampia, ma viviamo nel nord di Genova. Sta dedica per te che giudichi senza conoscere. Non sai qui come va, se no non saresti lì a sfottere. Rincorrere qualcosa che non sai manco se c'è. C'è chi tipo te parla di strada ma non sa com'è. Qui da me impari gli ideali e te li metti in testa. In mezzo a figli di puttana impari a vivere più in fretta. Cameretta, mette assieme le esperienze di giornata. Se sta vita ti va stretta, puoi anche far qualche minchiata. Se la situazione è disperata, puoi cadere giù. I soldi facili ti tentano, se in tasca non è più. Invece tu e quelli come te non hanno sto problema. Con papà a casa che paga, te la tiri e mi fai pena. Con la tasca piena, nasca piena, una vita serena. Tu ho sempre odiato quelli come te, naso all'insù. Sputo su di te, su chi ci disprezza. Fate i duri solo quando siete in stato di ebbrezza. Vivo in questa schifezza, non sputo dove ho mangiato. Quello che ho sarà poco, ma me lo sono guadagnato. Non mi ha fatto mai paura l'uomo nero. Ho paura del minchione, poi mi ho dato un distintivo. Nuova leva, cattiveria nel taschino. Non ha preso mai uno schiaffo ed è ancora un po' bambino. Gioca a fare il soldatino, siete in due. Fra bravo più cattivo, l'arroganza è tanta e tu non puoi rispondere. Se no ti mangia vivo, zero dialogo. Guadagno di sto cazzo, tu sei il diavolo. Sei quello che impazzisce, spara al padre dietro un angolo.